Allora, beh, intanto premessa la difficoltà un po' di seguire tutto quello che succede qui, perché il Brasile è un paese molto grande, con una Costituzione federale, e quindi l'informazione è molto, diciamo, divisa, no, fra i vari stati. Quindi le cose che non sono di grandissime dimensioni sono un po' difficili da seguire. Quindi proprio dare un quadro complessivo è estremamente difficile. Si sa abbastanza quello che succede a San Paolo e a Rio de Janeiro, ovviamente sono le città più grandi, meno si riesce a sapere di quello che succede altrove. Quindi, ovviamente, io cerco di documentarmi, però sicuramente, ecco, per gli ascoltatori bisogna dire che comunque i quadri che io riesco a dare saranno comunque sempre incompleti e parziali. Alle volte possono anche mancare, ovviamente, delle cose importanti che non si vengono proprio a sapere, perché ovviamente i media nazionali cercano di occultare quando possono e ne parlano solo quando succedono cose un po' più grosse, ecco. Quindi, premesso questo, la settimana trascorsa, dove cadeva, se non erro, giovedì, proprio l'anniversario delle grandi manifestazioni del giugno scorso, possiamo dire che in una certa misura il movimento è riuscito comunque a farsi sentire e a segnare un punto, diciamo così, a suo favore. Le cose più importanti sono successe a San Paolo: si è rifatto vivo il movimento Passe Libre con una manifestazione dal titolo "Non vai ter tarifa", cioè non ci sarà la tariffa dell'autobus, e proprio appunto per ricordare l'anniversario delle manifestazioni del giugno scorso. E c'è stato qualche migliaio di persone. Ovviamente poi sulle cifre, qualsiasi cifra che io do, c'è sempre il rimpallo fra le cifre date dalla questura e quelle date dai manifestanti. Insomma, io cerco di, non dico di stare nel mezzo, ma di stare su quella che mi sembra più credibile, perché vado a vedere anche i video delle manifestazioni, mi faccio un'idea, però è sempre un'idea parziale, ovviamente. C'è stata una manifestazione, qui c'erano migliaia di persone, qualche migliaio di persone. E una cosa interessante di questa manifestazione è che una delle rivendicazioni era la richiesta del reintegro dei lavoratori licenziati del metrò, di cui abbiamo parlato, se ti ricorderai, nella corrispondenza passata, no? Questa ripresa del lavoro dei lavoratori del metrò alla vigilia dell'apertura dei mondiali, malgrado che 42 di loro licenziati non fossero stati riammessi. Questo, ecco, mi sembra interessante per sempre questi tentativi che sono in corso di creare dei collegamenti e delle alleanze tra i vari, diciamo, settori del movimento, che nel giugno scorso, per esempio, avevano visto una certa separazione tra i lavoratori organizzati, quindi i sindacati, e invece il movimento della piazza. Cosa che, con numeri però chiaramente non sono quelli dell'anno scorso, si cerca qui di si vedono dei tentativi di superare. Come spesso succede qui, le manifestazioni terminano con degli scontri con la polizia, su cui molto poi puntano i mass media per un po', come dire, parlare male, insomma, di Garibaldi, cioè dei movimenti. Non è stata l'unica manifestazione, ecco, ci sono state anche a Rio, cioè nel quartiere Lapa c'è stata una manifestazione che ha riunito, ho esito molto a dare i numeri, insomma, comunque è stata una manifestazione che sicuramente, insomma, penso nell'ordine di un migliaio, 2 migliaia di persone e così via. Ci sono state manifestazioni a Porto Alegre, con degli scontri anche qui con la polizia, con 3 feriti. Qui i manifestanti non erano molti. A Brasilia c'è stata una manifestazione sempre giovedì, contro il genocidio, della gioventù negra. Quando si dice, parla di genocidio della gioventù negra, non si intende il fatto che la polizia militare e speciale, quando entrano nelle favelas, compiono delle azioni che poi lasciano sul terreno moradores, cioè abitanti, morti, insomma, e contro appunto la militarizzazione della polizia militare, che era una delle rivendicazioni del giugno scorso e che continua ad essere una delle rivendicazioni del movimento. Ci sono altre notizie di movimenti. Per esempio, a Recife, la settimana scorsa c'è stata l'occupazione della CAIS Estrelita, che la CAIS è un molo, e, è un'iniziativa che si ispira a Occupy Wall Street, quindi non è un'occupazione di Moradores, no? È un'occupazione diciamo che riunisce varie istanze del movimento. Ispirandosi appunto all'esempio che era partito negli Stati Uniti. E lì, anche lì c'è stata repressione poliziesca, repressione molto pesante a Fortaleza, dove le reti parlano di 41 arrestati. Mercoledì scorso c'è stata una manifestazione importante invece contro il piano direttore. Ecco, il piano direttore sarebbe il nostro piano regolatore. Che deve essere votato nei prossimi giorni a San Paolo, mi sembra il 24, il 25 o il 23, 24, 25, cui l'area di occupazione del Movimento Trabalhador Sentito è rimasta fuori. Quindi c'è stato questa ripresa del Movimento dos Trabalhador Sentito che ha portato in piazza parecchie persone. E adesso ci sono state di nuovo delle promesse, vedremo come va a finire. Comunque il fatto sta che il movimento ha dimostrato di essere vigile e ieri c'è stata 800 persone che hanno occupato un'area di un quartiere, un'area libera ovviamente, di un quartiere ricco di San Paolo dove dovrebbero sorgere dei grattacieli, eccetera, eccetera. Questo appunto per tenere l'attenzione sul movimento stesso. Allora, cosa c'è da dire secondo me? Ecco, c'è da dire che, malgrado non sia riuscito a portare, diciamo, in piazza i numeri dell'anno scorso, che d'altronde non è che possa succedere per decreto, ma sono, diciamo, ionizzazioni della storia e momenti di congiunzione astrale di tutte le condizioni politiche e sociali che possono creare, diciamo così, situazioni come quelle, non sono prevedibili. Però c'è una certa continuità del movimento e questo è il problema fondamentale per il futuro, cioè riuscire a dare continuità a questo movimento e dargli anche uno sbocco politico. Ecco, a Belo Horizonte, non va Intercoppa, con anche questa caratteristica un po' di fare una specie di streaking finale, scrivendo nei corpi le varie rivendicazioni, ma quello invece che attirato molto di più l'attenzione dei media, è stata una mega rissa sabato, una mega rissa tra i tifosi argentini e brasiliani, che non si amano perché i brasiliani non amano gli argentini, questo lo si percepisce, e questo purtroppo lascia vedere che i mondiali non sono sempre, o forse non sono appunto affatto come la retorica sportiva vorrebbe far credere un momento di fratellanza dei popoli, ma purtroppo invece sono spesso un motivo per riaccendere sciovinismo, per riaccendere insomma contrasti tra nazioni, etnie e così via.